voce d'un usignol, Jezebel trascinò l'anima credula, demonio dagli occhi blu, creder volle il cuor a quella tua bocca che dava la voluttà, Jezebel, Jezebel. A nulla so creder più, mai fatto odiare il ciel, Jezebel, angelo e demone. Quel tuo dolce volto m'apparì, destando nel mio cuor un sogno d'estasi, come l'angelo creder più, mai fatto odiare il cielo.